città è grande ma ti cerco. Tu chissà che cosa stai facendo. Vedo te tremare, penso a te, sto male io per te, non so cosa farei. Chiamami, fai il mio numero e chiamami, so che hai tanto bisogno di sentire la mia voce. Per favore tu chiamami, sei in pericolo, chiamami, dimmi qualsiasi cosa, ma non stare zitta mai. See you.